Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, Stefano Dainese che vi parla, come sempre il lunedì sera inizia Rock Wave. Vi do il benvenuto all'ascolto e do il benvenuto soprattutto al nostro ospite, un graditissimo ritorno nei nostri studi. Abbiamo ancora una volta Terry Lee Hale. Welcome back, Terry. And nice to be back, Stefano. Grazie. Terry è già stato mio ospite più di una volta, non molto tempo fa abbiamo fatto una trasmissione tutta incentrata sulla sua musica, diciamo, più recente. E ha un nuovo disco pronto che si intitolerà The Long Draw. È un disco che appunto è perfettamente finito, registrato, mixato, insomma è pronto per essere ascoltato, però non possiamo ancora trasmetterlo perché la data di pubblicazione è a ottobre, quindi saremo un po' troppo in anticipo sui tempi, diciamo così. L'etichetta discografica che è la Glitter House chiaramente non vuole che il disco venga suonato troppo anticipatamente, però abbiamo pensato con Terry di fare una trasmissione ispirata in parte anche a questo disco. È una trasmissione in cui lui ci parlerà, ci racconterà un po' di storie di musicisti che ha conosciuto nell'arco della sua vita musicale, soprattutto negli anni di Seattle. Nell'album, appunto, in The Long Draw, c'è una canzone che si intitola The Central, che parla di un locale di Seattle, un locale in cui Terry lavorava a metà degli anni 80. What year were you start? 1987. Ha cominciato nell'86 a lavorarci. E in quegli anni Seattle stava per diventare il centro mondiale della musica, stava per esplodere la grande scena del grunge, e lui era lì, lui era in mezzo, in questo locale che si chiamava The Central Tavern, dove hanno suonato tutti i gruppi di Seattle. E appunto nel suo ultimo disco ha deciso di scrivere una canzone autobiografica. Lui già in passato ha messo delle cose autobiografiche nelle canzoni, però non credo che fosse mai stato così diretto. Adesso lo chiedo a lui. In your past record there were autobiographical things, but they were kind of hidden. You were not speaking in the first person. I think this song is 100% autobiographic. Yes, the song is exactly, yeah. Most of the times as a songwriter you interchange characters with place. Yeah. And this song actually is about a time and a place that I lived in, and that was me. Sì, appunto ha confermato che molte volte come cantautore, diciamo come scrittore di canzoni, tu metti delle esperienze personali e le mescoli, diciamo le nascondi un po'. Invece questa canzone si svolge in un posto specifico, in un'epoca specifica, e la persona che parla è lui. You know, like a lot of times in a movie you'll say the names and places have been changed to protect the innocent. This is exactly the opposite. Si dice a volte nei film scrivono alla fine che i nomi e le località sono state cambiate per proteggere le persone, per nascondere la loro identità. Ha detto questo è esattamente il contrario. There were no innocents. Si è detto che non ci sono. Ok, aveva detto per proteggere gli innocenti. Qui ha detto gli innocenti non ce n'erano. Allora, noi cominceremo la trasmissione con la versione dal vivo di questa canzone, appunto intitolata The Central. E proprio perché fa da ispirazione a questa trasmissione, ho tradotto il testo anche con il suo aiuto, perché ci sono molti termini in slang che francamente anche con l'aiuto di un vocabolario non sarebbero stati possibili da tradurre, quindi ho cercato di rendere il più possibile il senso della canzone e di questo locale, appunto chiamato The Central Tavern. Adesso vi leggo il testo, poi Terry ci canterà la canzone, poi ci racconterà cosa succedeva in questo posto che per gli appassionati della musica è mitico praticamente, perché stiamo parlando degli inizi dei Soundgarden, dei Nirvana, dei Madonna, dei Pearl Jam, insomma della pazzesca scena che ha rivoluzionato il mondo della musica rock. Allora, The Central, Honky Tonk Bar al centro della piazza, Central Tavern cerca di diventare il centro di qualcosa. bar portato là passando per Capo Horn. Questo significa che avevano portato l'arredamento dall'Inghilterra su una nave che ha passato Capo Horn. Devo spiegarlo perché non c'è altro modo per dirlo. Stanza con luce nera, poster di Jimi Hendrix sul muro, palco sul retro nell'ombra, caraffe di birra, un po' di vino in cartone, hamburger al pomeriggio, rock and roll quasi tutte le sere, porte chiuse alle 2. Mary lavorava di notte, George si beccava le giornate, io ero quello che arrivava per ultimo al posto di Mike and Donna. Aiutavo nei weekends, notti di rock and roll e weekends. Lavoravo nei weekends, cercavo le band e le facevo suonare nei weekends. Pioneer Square, Seattle, Washington. Uscire ti costava $20 nel 1987. Gente di tutti i generi, sbandati con la bottiglia in tasca. Ronald Reagan era presidente. 10 o 12 locali lì nel rione. La Central Tavern era diversa dagli altri, un po' malfamata, un nido di strambi. Per entrare ti controllavano l'età. Un lungo vecchio bar giusto sulla sinistra, muri di mattoni pendenti, nessuno si impressionava. Era una gran signora ai tempi del West, tutta sola, un bar essenziale, un tempo e un luogo. Io, il fortunato, in prima fila, avrei persino pagato per esserci. Lo stile locale significava pioggia e la musica non aveva nomi, perché questo significa che non esisteva ancora il grunge. La suonavano e basta, ma non sapevano cos'era. E ci coprivamo la testa quando l'inverno era in giro, non ce ne importava molto comunque. Ma ora è finita, le erbacce sono cresciute. Qualcuno ancora ci crede, ma che ne so io. Gli amici sono alla radio, li abbiamo alla radio, amici nelle radio, li ho aiutati a finire nelle radio. The Central, Terry Lee Hale. Central Tavern, looking for a scene, fixing to go somewhere. Brought around the Cape Horn bar, black light room. Jimi Hendrix posters on the wall, stage up in the back of the gloom. Get your beer and a little boxed wine, burgers in the afternoon. Rock and roll most every night, doors had a lock at 2. Mary worked the nights, George had to get the days. Me, I was Johnny come lately to Mike and Donna's place. I helped on the weekend, rock and roll nights and weekends. I worked on the weekends. I booked the bands on working weekends. Pioneer Square, Seattle, Washington, was a $20 drinking date back in 1987. Mixed up crowd, wine was at the edge. Ronald Reagan was a president. Ten or 12 bars for the upscale set, but the Central Tavern was different than the rest. She was seedy and oddball. Get in, you had to pass the ID test. A long old bar right there on your left. Leaning brick walls, no one to impress. She was a grand old lady, stood alone in the west one time. All alone now. Essential bar, one time and place. Luck of me with the front row seat, I'd have paid their banner anyway. Northwest style membrane, and the music didn't have a name. Well, we covered our heads when the winter rolled around. Didn't seem to matter much anyway. Well, she's gone. Yeah, the dogs sniff round. People wouldn't know. Friends on, friends on, friends on the radio. I have my friends on the radio. Friends on the radio. I helped to get them on the radio. E questa era The Central, che farà parte appunto del disco The Long Draw, un album che contiene anche altri brani autobiografici. E questo però appunto aveva un significato particolare, oltre ad essere secondo me una delle canzoni più belle del disco. Poi nell'album è naturalmente arrangiato con la band, più complesso diciamo il sound. E come avete sentito insomma appunto dal testo, Terry lavorava in quegli anni in questo locale e faceva il booking, cioè praticamente organizzava le serate. You were in charge of booking the bands there, right? Yes, I worked as the booking agent, that's right. So can you tell us some name of the bands that you booked there when nobody knew about them? Dici un po' di band che hai fatto suonare in questo locale quando nessuno li conosceva. Well, all of the bands that were working in Seattle at that time, none of them, or very few of them, had actually been able to get into the larger rock and roll venues. We were playing independent, small neighborhood bars, perhaps, or like the Eagles Hall or the Odd Fellows Hall. But, you know, we worked to get bands like the Young Fresh Fellows, the Walkabouts, Pure Joy, Danger Bunny, a lot of the bands Soundgarden, of course, Screaming Trees, Nirvana played here, Mudhoney, Green River. Okay, let me translate. Oh, excuse me. Sì, ha detto, loro c'erano, diciamo, degli altri locali dove suonavano le band più mainstream, mentre loro facevano suonare le band sconosciute, quelle che all'epoca erano sconosciute, e quindi ha citato appunto i nomi da quelli degli Young Fresh Fellows e Mudhoney, Green River, i Nirvana, i Soundgarden, i Screaming Trees. Insomma, parliamo di gente che all'epoca era molto giovane. They were all very young back then, right? Yeah, we were all. Yeah. 1987, come on. Sì, eravamo tutti più giovani, ma penso che alcuni di questi fossero veramente... I think that people like Soundgarden were around, I don't know, teenagers. Yes, and I know that there were some bands that were not even 21. Sì, ha detto c'erano alcuni gruppi che non avevano nemmeno 21 anni. This means that they couldn't drink there? Well, actually they weren't even supposed to be inside the bar. You had to have a special permission slip from your parents, the liquor control board, you know, but we would... Sì, dovete sapere, negli Stati Uniti se si ha meno di 21 anni non si può bere, non si può entrare in certi locali. Il Central Tavern era uno di questi, infatti nel testo appunto dice che per entrare ti controllavano l'età, e quindi questi gruppi tipo i Soundgarden, che non avevano ancora 21 anni, avevano bisogno di un permesso dei genitori e anche del liquor control board, cioè c'era un ufficio che controllava l'uso di alcol per poter suonare in questo posto. But you know what happens a lot of times, I think, with rock and roll bands, if you just play small rooms, you stay a small room band. But if you get the chance to play a bigger stage, you have a chance to grow. Your sound, the songs, your presentation. And this is what was essential about the Central Tavern. Dice che comunque Central cominciava a essere una sala di una certa dimensione, per cui questi gruppi che suonavano in luoghi ancora più piccoli riuscivano a fare il passo avanti in un palco un po' più grande, dovevi adattarti anche, diciamo, dal punto di vista del suono delle canzoni, e per quello volevano tutti suonare so everybody wanted to play there. All local scenes, small scenes, music scenes need these kinds of bars. It's not the little neighborhood pub bar, but it's a bigger stage with a bigger sound system, and this is essential for the development of the bands and a local scene, which is what happened in Seattle. So it wasn't a bar, it was a music club. Yeah, it was a music, it was a bar, but it was more than a bar. Yeah. It was a place with a bigger audience, a bigger sound. There was a cover charge in the front. It wasn't a free show. That's important. It is important. Ok, let me translate. Sì, mentre c'erano dei bar con un piccolo palco dove suonavano praticamente per i vicini di casa, il Central Tavern era un posto più professionale, dove fra l'altro si pagava per entrare a vedere la band, anche se non era una band conosciuta, e già questo significa scremare il pubblico. C'era una presenza di persone più ampia e c'era un'amplificazione di qualità superiore. Parliamo appunto ormai di un po' di anni fa, quando non era così banale avere anche un sound system di un certo livello, per cui era il locale dove le band potevano fare quel passetto, che era il primo piccolo passo per diventare più grandi. It was the first step for a much longer way. A the self-respect that a band has, even if it's only a Tuesday or a Wednesday night at the beginning, like the Walkabouts, for example, I think their first night there was like a Thursday night at the Central Tavern, which was a slow night. What you wanted, of course, was a Friday or a Saturday. But you have to earn this spot. Sì, detto, per le giovani, per le band più nuove che esordivano, andava benissimo anche una serata infrasettimanale, il martedì o il giovedì, anche se naturalmente tutti puntavano al venerdì o al sabato, che erano le serate top, però quelle dovevi guadagnarsele. Quindi prima si suonava il martedì o il mercoledì, e se la serata andava bene, se si vedeva che la gente aveva apprezzato, allora la volta successiva si faceva il passo successivo, si faceva il passo più avanzato, diciamo, per la serata importante. E Terry era lì in comune con questi ragazzi, aveva i capelli lunghi, ma musicalmente you had long hair like anyone else, but your music sounded different. Yeah, but you were playing with the Jack Endino in those days, right? No, I was not also the band I had with Jack and Dino was called The Ones, and that was from 86 or, you know, 85 even. It was very early. It was by the time I started working at the Central, the Ones were over. Ah, sì, lui prima di lavorare a Central aveva suonato in un trio con Jack and Dino al basso. Jack and Dino è l'uomo che ha prodotto il primo disco di Nirvana, oltre ad altri penso 300 dischi, e lui, appunto, Terry aveva con lui una band chiamata The Ones. Avevano anche preparato un disco che non è mai stato pubblicato, esistono i nastri, prima o poi usciranno. You made a record and never yeah. came to life, but sooner or later we will hear it. Yes, actually I was in this band with Jack and Dino and a drummer named Mike, Chris Adams, and Jack left my band to join Skin Yard. Okay. Sì, ha detto lui e la band erano in or tre. Or to create Skin Yard, actually. Okay, erano in tre, l'altro era Chris Adams alla batteria, e Jack lasciò la band per fondare gli Skin Yard, con cui poi ha esordito discograficamente. E l'esordio discografico di Terry, invece, è in un disco che ha fatto un po' la storia, che è Sub Pop 200. Con una canzone intitolata Dead is Dead. Direi ci ascoltiamo prima la canzone, poi ci racconta la storia. First we hear the song, please. And then you will tell us how you ended up in Sub Pop 200. Ascoltiamoci allora Dead is Dead. Why me, Lord, I didn't mean to do it. But I saw red when she kissed him back, and I lost control. The carnage spreads and their blood it mingles and is very red. But maybe they'll get up and laugh and walk and breathe. Never do. Oh, they never do. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E allora, questa era Dead is Dead. La Sub Pop era l'etichetta più importante, forse l'unica. Was Sub Pop the only label in Seattle? Of the... No, Pop Llama Records. Ah, anche la Pop Llama. Yeah, c'era, sì. Very important label. And there were some others too. I think there were some metal labels. I mean, wasn't Heart, was a huge band at that time. Queensryche, I mean, they were... Yeah. I don't know if they were necessarily on Seattle labels, but yeah, there was other... Sì, c'erano anche etichette metal. Who put out the Sonics and this label? I mean, this was a very important label, and I don't know the name of it, but yeah, there was... C'erano anche altre etichette, proprio yeah. quella dei Sonics. I Queensryche erano la band metal più importante della città, però la Sub Pop era l'etichetta che poi è diventata famosa perché appunto ha lanciato tanti gruppi di Seattle. E nell'album credo che Terry sia l'unico cantautore. Are you the only songwriter in Sub Pop 200? Yeah, a pure songwriter. I mean, all, yeah. of course, all of the. Not a band, I mean. Yeah, without the band. Sì, tutti gli altri musicisti che partecipano a questa raccolta, che fra l'altro è piuttosto diventata rara, poi c'è un'edizione di qualche anno fa. E allora volevo sapere com'è c'è finito. How you ended up in that compilation? The only reason that I ended up on that compilation was. There was another rock and roll band that was supposed to be on the record, but they had not submitted their record on time. And so I had a phone call from the drummer from the Walkabouts who told me if I got my tape down to the sub-pop first, offices... The first drummer, I mean. Yeah, Grant Ekman. Grant. Yeah. He said, if I got my tape down to a cassette tape for submission to the offices that day, they would give it a listen, and then that was the song that was on the record. Praticamente c'era una delle band che erano state interpellate per far parte di questa compilation non presentò in tempo la canzone che avrebbe dovuto portare. Grant Ekman, fratello di Chris, che all'epoca era il batterista dei Walkabouts, chiamò Terry dicendogli: se riesci a portare un nastro con la tua canzone entro oggi pomeriggio, questi hanno bisogno di una canzone per finire la tracklist del disco. E è quello che lui fece, e riuscì appunto in questa maniera a entrare in questa compilation, che è stata un po' l'inizio della sua carriera, nel senso che l'album ebbe un discreto successo e soprattutto fu molto ascoltato da promoter musicali un po' in tutto il mondo, perché era il disco che mostrava la ricchezza della scena musicale di Seattle. E adesso Terry sta spiegando qualcosa al nostro tecnico Agostino, perché ha deciso di cambiare la tracklist, perché adesso ci ascolteremo un brano da un suo album che poi è stato pubblicato nel 1996, si intitola The Wilderness Years. But I change this. I want to play you yeah. the song There Was Dead Is Dead was my submission, which was accepted. There was two songs. Oh, okay. We're going to play the other option. The other option. It's called A New Heart. Ah, ok. Lui all'epoca aveva portato alla Sub Pop due canzoni. Una era Dead Is Dead e l'altra era A New Heart. Che la Sub Pop scelse appunto Dead Is Dead. E New Heart fece parte poi di una delle tre cassette che lui registrò a Seattle con l'aiuto di vari musicisti locali, fra cui Chris Ekman e altri. E poi queste cassette sono state messe insieme nel 1999, credo, dalla Glitter House, appunto, per fatto questa compilation che è una raccolta dei suoi primi lavori. So this A New Heart was rejected from, yes, and I thought it was a fantastic song, but just imagine if this song had been put on Sub Pop 200. The history of the world would be different. Sì, ha detto, io credo che sia un'ottima canzone, però se fosse stata messa in una compilation della Sub Pop avrebbe stravolto il mondo, perché in effetti adesso la sentirete, questa A New Heart è molto diversa, diciamo, dalle cose che fa, ancora più diversa rispetto a Dead Is Dead, rispetto ai suoni normali della Sub Pop. new heart, and then I'm gonna run away. Yes, I need a little bit of time to figure out what's really mine. I'll leave a part of me here, though, to mind the store. Yes, well, I'm away. Pay the business and me checks. I'll never worry at rest. Do you think it's strange? Well, I'll tell you that I hardly care. I've been in here much too long. Let me out, watch me run. Say goodbye, Terry Lee and Bonnie. Run! I'm always talking about the changes. Now look, who needs a major change? Don't ask me how I know. On a hard line it shows. A new heart's a thing I need. A new heart's a thing for me. Not about it happening yet. Given half a chance, I could build a heart that lasts. I know a little place that's warm, and a place where all the shadows hide. That's a place for me. With my new heart, then I'm gonna know I'm never gonna leave. I've been around these streets up and down, it seems. I'm always talking about the changes. I think we need some major changes. Don't ask me how I know. On a hard line it shows. A new heart's a thing I need. A new heart's a thing for me. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, sono le 22:03 minuti, abbiamo passato già un terzo di trasmissione con Terry Lee Hale qua in studio. Stiamo parlando dei suoi esordi a metà degli anni 80 a Seattle. Questa è New Heart, vedo la presenza dei Muzzle Tones, che sono un gruppo klezmer. E il commento del suonatore di clarinetto a questo brano fu: questo è molto molto ebraico. I was proud. Yeah, capisco che non c'entrasse molto con la sub pop. I understand why people in sub pop were not convinced by this. Some people are always, have a better better vision of the future than I do, that's for sure. Questo album, appunto, come dicevo prima, pubblicato in edizione limitata, fra l'altro, dalla Glitter House nel 95, scusate, vede la raccolta di tre cassette, che all'epoca appunto veniva pubblicato solo in cassette, che erano Fools Like Me, Littlewood Guitar e My Confession. I primi due prodotti da Chris Eckman e l'ultimo prodotto da Jack Endino, 1988, 89 e 92. All'epoca registrare canzoni non era facile come adesso, bisognava andare in uno studio che si pagava e poi appunto senza un'etichetta si poteva uscire solo su cassetta. Back in those days it was not that easy to make a record. You need money, you need a proper studio, and without a label you can only make a cassette. Yes, and so that was the only way you had to sell your music at the concerts, right? Nobody had any money. I certainly didn't have money. Nessuno aveva un soldo, sicuramente non io. Most young musicians don't have money, so, and especially in those days, any kind of recording was had to be done in a studio. It wasn't like now, so it was really difficult to do, to record, get recorded. Sì, ha detto appunto all'epoca era necessario andare in uno studio e era decisamente impegnativo dal punto di vista economico e quindi si faceva molto meno rispetto ad adesso. Forse può essere anche un vantaggio, nel senso che adesso si registra con troppa facilità. Maybe it was better that way in a way because you had to think a lot about what you were doing because it cost you money. Now everybody is putting out records like very easily. Yeah. And yeah, it just although you know, it's more democratic now. È più democratico adesso. Yeah. In other words, anybody can make a record now. Whether that's good or bad, I'm not going to answer that question. Sì, ha detto chiunque può fare un disco, buono o cattivo, non sta a me a dirlo, però è molto molto più facile. E dal secondo di queste cassette, però sempre appunto dall'album che li comprende, che li raccoglie, ci ascoltiamo la canzone che dà il titolo che dava il titolo appunto alla cassetta, Little Wood Guitar, piccola chitarra di legno praticamente. È una specie di affermazione, perché Terry suonava in mezzo, faceva da supporter ad esempio il Soundgarden, c'è un vecchio poster che vede appunto il Soundgarden come headliner, Terry Lee come supporter. I saw a poster where you were supporting Soundgarden. Faith No More. There's Faith No More. Mud Honey, a lot of bands, yeah. With your little wood guitar. Yeah. Con la tua piccola chitarra di legno. My problem in those days as a performer was that the folk musicians did not like me. I had a hard time with the rock musicians because I was playing acoustic guitar. Why the folk musician didn't like you? Because I played too loud. the rock musicians didn't like me. It wasn't didn't like, but I was too loud or not loud enough. This kind of thing. Okay, si è detto lui all'epoca aveva il problema che i musicisti folk non ai musicisti folk lui non piaceva perché era troppo, faceva troppo rumore con la sua chitarra acustica, ma mentre per le band rock, avendo solo una chitarra acustica, non era abbastanza rumoroso, quindi era nella terra di nessuno. You are in no man's land. I was in no man's, a musical no man's land, and this song, Little Wood Guitar, addresses that subject. E questa canzone appunto, Little Wood Guitar, parla proprio di questo. Adesso ce l'ascoltiamo. Thank you. just what the world needs. And ain't it funny how they point their fingers? Well, I listen, yeah, but do not heed. Yes, and I'm working. When I play, I get some satisfaction. And when I play, yes, I work it in hard. And what I am is how you hear me, but it's just me and a wood guitar. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa per me, questa Littlewood Guitar, è come una canzone dei Mudhoney suonata da un tizio da solo con la chitarra acustica. To me this sounds like a Mudhoney song played by just one guy with a Littlewood guitar. For me it always sounds like Billy Gibbons and ZZ Top. That was a total rip-off from Billy Gibbons, one of my favorite guitar players actually. Sì, lui in realtà si era ispirato a Billy Gibbons, il chitarrista dei ZZ Top. Comunque il concetto è che si sentiva, potete immaginarvi uno su un palcoscenico che sa che dopo di lui suonerà una band che fa un rumore pazzesco e che cerca di colpire l'attenzione degli ascoltatori pur avendo solo una chitarra acustica. I can imagine you on a stage playing before Soundgarden or and trying to be as noisy as possible for just one guy. And this song would have been perfect, you know. This one was always the closer, the last song of the. It was open C tuning on the guitar, so it's dropped C tuning, so it's very low and very loud. Ah, ok, this is technical thing. Okay. Si dice, questa è una canzone che usava sempre per chiudere le esibizioni ed è una cordatura aperta in C, che non so, deve essere un Mi. Drop C tuning. Drop C tuning, per chi suona la chitarra sa cosa vuol dire, che serve appunto a ottenere un suono fondo e molto, molto potente. As loud as possible, okay, diciamo più rumoroso possibile. E, il vantaggio di essere a Seattle, questo Terry me lo disse anni fa, lui si era trasferito a Seattle dopo aver passato non so quanti stati americani, era che la città comunque aveva una mentalità più aperta rispetto ad altri luoghi d'America. Ad esempio a Chicago, se non suonavi blues non ti consideravano, a Nashville se non sono il country non sei nessuno, a Seattle c'era una scena più aperta. You told me in the past that Seattle was much more wide open-minded for music compared to other American cities, that's why you ended up there, right? Yeah. So the people that was in clubs to listen to rock bands were actually listening to you before. Cioè, la gente che veniva per ascoltare i gruppi rock, they had no choice. Comunque l'ascoltava, detto non avevano scelta. You know, the choice I always was, just wanted to get on a stage, you know, in Austin, they Texas. They had the choice to go back and drink beer. Yeah, but, avevano, you know, la scelta di andarsene a bere una birra. Look, I mean, before I moved to Seattle, I was living in Los Angeles, and there was a place there in central Los Angeles. It was called The Central, and they had an open microphone on Tuesday night, and I went up there every Tuesday night for this open microphone. But in that place, it was like Jesse Ed Davis, the singer for Foreigner, all of these out-of-work rock stars were on the open microphones. Nobody wanted to talk to Terry Lee Hale. Sì, detto, prima di andare a Seattle, era stato a Los Angeles, c'era un posto che si chiamava anche lì The Central, dove il martedì sera c'era l'open mic, cioè il microfono era libero e chiunque poteva andare a esibirsi. Però finivano per esibirsi anche delle persone molto conosciute, tipo il cantante dei Foreigner, Jesse Ed Davis. Jesse Ed Davis, che non conosco. He played with Bonnie Raitt, I mean, a fantastic guitar player. Sì, era un chitarrista di Bonnie Raitt, ok, quindi... E quindi sì, che stiamo parlando appunto di Los Angeles, quindi il centro dell'industria discografica americana, was the center of the in music industry in, yeah, it was in just another bar in Los Angeles. So the point was that you know, it was obvious that I needed to get out of Los Angeles, and I could go to a place like Seattle, and it was much more friendly, musician friendly for somebody like myself. So sì, ha detto, era chiaro che Los Angeles non aveva spazio, quindi era per lui la mossa più sensata era andare a Seattle, dove c'era una scena più aperta, dove avrebbe avuto più possibilità, and, appunto, di farsi sentire. And Seattle was a place that I was able to put together all the different styles of music that I had learned traveling around America before I moved to Seattle, Austin, Texas, Chicago, Illinois, Boston, Massachusetts, Lansing, Michigan, Denver, Colorado, etc., etc., Los Angeles, San Francisco. Avete sentito l'elenco dei posti dove aveva abitato prima di andare a Seattle, e in ognuno di quei posti aveva raccolto le influenze musicali del luogo, e Seattle le ha potute mettere insieme, forse perché Seattle non aveva una sua musica tradizionale. This was probably because Seattle didn't have the local traditional exactly. music from Seattle. Exactly, and that's why I think Los Angeles could have been that place, but it was just too big for me, so I needed a smaller venue. City yeah. and Seattle was that place. There was no heavy cultural pressure to be anything other than what you wanted to be. Si è detto, Los Angeles avrebbe potuto essere quel posto, ma era semplicemente troppo grande. Invece a Seattle c'era una situazione culturale tale per cui avevi la possibilità di essere quello che volevi essere. E però poi il suo primo disco uscì per un'etichetta tedesca, perché gli europei avevano un modo diverso di vedere le cose dall'altra parte dell'oceano, e quindi qualcuno in Germania sentì queste sue cassette e disse: questo è un personaggio che ha una validità, una personalità, e vogliamo fargli fare un disco. But you ended up to make your first record in Germany. Well, no, I made the record in Seattle. Which record? Oh, What a World. Yes, but it was from a German label. It was released in Germany. The record was actually created in Seattle. I didn't know that. Oh, yeah. Allora, il disco, Oh, What a World, che adesso è introvabile, fu realizzato in America e pubblicato da un'etichetta tedesca. So you made a record with your own money? Yes. Lo autoprodusse. All of those cassette LPs were made in Seattle. Yes, but also Oh What a World was a cassette first? Yes, it was a cassette. Mm-hmm. I didn't know that. Yes. After all these years I still have things to know. Dopo tanti anni che lo conosco ancora non so tutto. Oh What a World fu realizzato anche quello in cassetta inizialmente, poi appunto l'etichetta tedesca, la Frontier, decise di pubblicarlo in Germania, un paese di cui Terry aveva sentito parlare solo sui libri di storia, forse neanche positivamente. Before that day you've heard about Germany only in history books and It was a little more personal than that. My friends the Walkabouts had already released one or two records by 1993, maybe even more, on Glitterhouse Records. Okay, mm-hmm. But you never been to Europe before? Europe was something from Grimm's Fairy Tale or something, you know, it was a place, I saw my friends go on an airplane and they'd come back a month later with all of these stories, the young fresh fellows had gone to to Italy, you know, there was a few Seattle bands that had been, of course, by 93, when I first came to Europe, I think even Nirvana had been to Europe, and, yes. So... I didn't come to Europe till 1993. Sì, non era mai venuto in Europa prima del 93. Tutto quello che sapeva dell'Europa era quello che gli aveva raccontato i suoi amici musicisti, appunto gli Young Fresh Fellows o i Walkabouts, che erano stati in tour in Europa, avevano pubblicato dischi di tipo i Walkabouts per la Glitterhouse in Germania, e sapeva che anche Nirvana erano andati in Europa, ma era un posto un po' misterioso. E da questo album Oh What a World ci ascoltiamo The Boys Are Waiting, che è una canzone molto importante per Terry, a parte che è molto bella, ma è perché è una canzone che lui dedicò a sua figlia. The Boys Are Waiting is dedicated to Liza, my right? daughter, yes. My daughter, that she was a teenager back then, era una ragazzina, well, she was 12, 12 anni. She was born in 77, so she was 93, she was whatever 15, 16, aveva 15-16 anni, e la canzone si intitola The Boys Are Waiting, i ragazzi stanno aspettando. Dal punto di vista di un padre è uno di quei momenti un po', from a father's point of view, that's the hardest time of your life as a father, probably. Yeah, you know, as a single dad, it's all hard. Sì, era un padre solo, yeah. un single father, sua moglie le aveva lasciato la bambina e se n'era andata, quindi la canzone esprime i suoi pensieri, i suoi sentimenti in un momento molto delicato, diciamo, per il rapporto con sua figlia. The boys are waiting. She's 12 years old and so full of life. What can you say? Should I scare her or lock her away? Of course I know better, but yeah, it's true. I'm tempted. Need to explain, logical and clear, point out the danger and hope they hear. And I've been trying, it drives me crazy. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questo brano era Boys Are Waiting, che è l'arrangiamento di Bruce Wirth, che io ho visto anni fa accompagnare Terry in una sua band, un musicista poco conosciuto ma straordinario, che suona praticamente qualsiasi strumento, dalla lap steel alla fisarmonica, alle percussioni, chitarre, violino, insomma una cosa pazzesca, e fa anche appunto questi bellissimi arrangiamenti. E Chris Hackman dei Walkabouts da quegli anni, il miglior amico di Terry, è anche collaboratore musicale, ha prodotto un sacco di suoi album anche recentemente. E nel libretto che c'è dentro a The Wilderness Years racconta di come ha conosciuto Terry in un locale chiamato 5-0. Loro andarono a vederlo un mercoledì sera, e dice qui, adesso traduco un po' così a braccio, la gente era attenta e ascoltava, e come avresti potuto non farlo? Hale scivolava e faceva, adesso è un po' difficile da tradurre, sono tutti termini gergali, ma si arrampicava intorno alle canzoni e si creava una sua strada attraverso un apparentemente infinito pozzo di canzoni, dove pescava le canzoni. E ogni angolo dell'America dove lui aveva lavorato ed era passato veniva fuori in qualche maniera dalle canzoni, quello che diceva prima Terry, e le pianure asciutte del Texas, le località piene di lavoratori emigranti della parte est di Washington, i boschi del Michigan, le ferrovie di Denver e le città piene di carbone della parte est lungo la costa. Tutto riguardo a lui sembrava inaspettato e non imprevedibile. Io non avevo mai incontrato prima un vero folk singer, e eccolo qui, uno grande, con grandi storie, con rozze storie di tristezza, esaurimento, sconfitta e ottimismo ad occhi aperti. Non era certo il tipico incontro che facevi in un bar. So these are the words that Chris wrote about you. And during all these years your life changed a lot. In questi anni la sua vita è cambiata molto, lui si è trasferito in Europa, ha sposato una parigina, abita vicino a Parigi, e il punto fisso è rimasto l'amicizia con Chris. But the friendship and collaboration with Chris is still there. It's probably your most stable relationship. That's true. I've had much more girlfriends than ho cambiato molte fidanzate, ma gli amici sono. Chris and I have been he's been extremely loyal over the years. In fact, all of the Walkabouts have. It's been a wonderful friendship and one of those very fortunate twists of fate that life gives us, and I've been very, very fortunate with this friendship, that's sure. Si è detto, Chris è rimasto sempre molto fedele negli anni, e questo colpo di fortuna che è stato conoscerlo è rimasto uno dei momenti migliori della mia vita, una relazione appunto che si è sempre mantenuta. E qui abbiamo l'ultimo disco dei Walkabouts, che si intitola Travels in the Dustland, che è l'ennesimo conferma, fra l'altro è un disco che io ho trasmesso molto, è un mio disco preferito dell'anno scorso. È un disco che mostra la grandezza di questa band, perché dopo tanti anni riescono ancora a realizzare delle opere di straordinario livello. I think that Travels in the Dustland has this great thing that shows that a band can be still be very good after all these years, and yeah. This is something that happens very few bands. Questa è una cosa che succede a pochissimi gruppi, penso. Yeah. Well, and again, you have to point the finger of inspiration, I think, right at the songwriter of the band, which is Chris Eckman. I mean, he pushes himself, pushes the band with his material, with the vision of what the overall sound of a record is, and Travels in the Dustland is a fantastic record, and the Walkabouts keep growing as a band, and that's a fact. Sì, appunto, anche Terry è d'accordo che i Walkabouts continuano a crescere come una band dopo tanti anni, e Chris, con la qualità del suo songwriting, riesce ancora a dare la spinta alla band dopo tutti questi anni per progredire. È una cosa appunto che è estremamente rara. Allora ci ascoltiamo il brano My Diviner da Travels in the Dustland. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, qui il tempo vola, perché con queste storie, questa musica, poi c'è anche il tempo per la traduzione, che insomma purtroppo ci fa un po' rallentare. Allora adesso Terry ha ripreso in mano la sua 12 corde. Per chi fosse appassionato di chitarra, dico che è una chitarra artigianale costruita nella costa est degli Stati Uniti. Si chiama Froggy Bottom, è una bellissima chitarra artigianale. Ci farà ascoltare una canzone che si intitola Watershed. Watershed è una canzone che lui ha scritto, ma che non ha. This is not in any of your records. No, right? It's unrecorded. Yeah, it's unrecorded. Yeah. But maybe in the next project. Maybe the next project. Why not? C'è un progetto in ballo, forse la canzone vedrà vita, diciamo. Comunque intanto potremo ascoltarla qui. Si intitola Watershed. Watershed è la riserva d'acqua, praticamente i bacini che noi abbiamo sulle montagne, ad esempio, che anche in America hanno delle montagne, dove si tiene l'acqua per i periodi di siccità. E in questo caso c'è un'analogia, mi diceva, con il talento di un cantautore, appunto, dove c'è una riserva di canzoni che tiene da parte. Una di queste è appunto Watershed. Terry Lee Hale dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Well, it's situated exactly, running right across the grain. Some say just strategic, most say just in a way. Well, it never been a natural obsession, close to a national craze. But all my friends wink, twinkle, twinkle, nudge, nudge, said, boy, you just wait, 'cause there ain't no doubt about it. Where to seen it all before? Where to think you just ripe and ready to get it on the ground floor? He did the watershed. He did the watershed. Well, he crawled right out of his hole once or twice a week, mostly just to scratch himself out of girls, drink a beer, take a peek. Well, the friends stand around just grinning, say, boy, where you been so long? I just been doing my thing. I wrote me a couple more songs. They say, oh man, you know we just knew it. You're just a red son of a gun, and they ain't seen nothing like it since 1961. We just a watershed. It is a watershed. Oh, play that thing. Watch out! Sometimes I wonder about my rations, maybe just a worry out loud, 'cause it's true it can be distracting. How's a body supposed to live anyhow? Oh, my friends say, man, don't worry, boy, calm yourself right down, huh? 'Cause it's true if you want to be original, You got to learn to stand alone in a crowd. I said, oh man, you know what made me happy. Well, I wanna believe what you say, 'cause I've been working real hard and steady to get ready for a day. Oh, we just a watershed. I got a well-worn guardian angel. I got a half a dozen earthbound friends. Well, to think I'm really something special, you'll never see a one again. Oh, we just a watershed. He did the watershed. He did the watershed. He did the watershed. Okay, get out of here. Watershed è una canzone che parla di cantautori e Terry ne ha conosciuti tanti nella sua vita. Uno di questi è un personaggio che io sinceramente non avevo mai sentito nominare, anche perché è uno dei nomi più assurdi che abbia sentito in vita mia. Whiting Tennis. Tennis è il cognome, è scritto Tennis proprio come e il nome è Whiting. C'è un suo album che Terry ha portato che si intitola Three Leaf Clover. E, si apre con una canzone intitolata Teenage Daughter. Come Terry ha dedicato una canzone a sua figlia, appunto The Boys Are Waiting, che abbiamo sentito prima. Questa Teenage Daughter, la figlia teenager, non so se era autobiografico anche nel caso di Whiting. Did Whiting had a teenage daughter himself? Not really, I think it's a cousin or he's the uncle of, but it's like his teenage daughter. Look Whiting is there was a lot of, I made a lot of friends in Seattle over the years when I was living there, and there was a lot of fantastic bands, and Whiting is just one of many people, but he was very special, like they all were. And he had a band called Big Tube Squeezer, which when I started booking bands, they were really a fantastic, it was a three-piece band, and I was a big fan of that band, and I have been a fan of Whiting's for many, many years, and this is his new work. Sì, lui aveva una band chiamata Big Tube Squeezer, era una delle tante band di Seattle, ma lui era veramente speciale. Terry era diventato suo amico, gli apprezzava molto, gli faceva lavorare appunto alla Central Tavern e continua a seguire il suo lavoro. Questo album, appunto Three Leaf Clover, è il più recente del suo lavoro solista. La canzone Teenage Daughter non si riferisce a una sua figlia reale, ma probabilmente è una nipote, anche perché credo che Terry fosse l'unico a doversi prendere cura di una figlia nell'ambiente dei musicisti. I think you were the only single parent in the bunch of young guys playing rock and roll. Yeah. At least you were the only one that knew to have a girl, to have a daughter. No. Almeno lui era l'unico che sapeva di avere una figlia. Magari gli altri, chissà. Yeah. There was it was special that I was a single father, but look, there was a lot of women raising children by themselves. Yes, I'm proud of what I did, but I was one of many, many single parents. Single musician parents too. Dice che la cosa era molto più comune fra le donne, c'erano tantissime ragazze che crescevano un figlio da solo, quindi lui è orgoglioso di averlo fatto. Sua figlia è sposata, ha dei figli, insomma, una vita valida, ben piantata, ben sistemata. Però appunto ho detto, non ero altro che uno dei tanti single parents, cioè parenti singoli, che si identifica non, senza specificare se padre o madre, insomma era qualcuno che da solo deve crescere un figlio. Allora ci ascoltiamo questa Teenage Daughter di Whiting Tennis. Waves upon the water, and I see her in my mind, like a seagull in the sky, a long lost teenage daughter. Her hair is hanging down in braids, the sun it shines behind her face like a yellow green violet morning. And she's calling out my name just as sure as I'm awake, just as the day. With breath, spend it on the highway of this lifetime. Now you know that I'm no good. I told you every way I could. The angel that I've come to know is mine, my teenage daughter, my teenage daughter. Questo era Wide in Tennis, una canzone notevole, questa teenage daughter, un personaggio che qui in Italia è assolutamente sconosciuto, credo, almeno io non l'ho mai sentito nominare. Terry ce l'ha fatto scoprire, appunto uno dei tanti musicisti di Seattle. Seattle sembrava essere il centro del mondo. Mi chiedo se poco prima che scoppiasse, diciamo, questa la moda, chiamiamola, il successo del grunge, loro si fossero resi conto del fatto che si stava creando qualcosa di importante. But when you were, you know, in Seattle with all these new bands coming out and all of them were good or great, did you, I mean, not you, the whole bunch of people there, having any clue that something big was happening? No. They were friends. We were friends together. Everybody, you know, I think people understood that this was great music. But it's like your uncle or your aunt. They're just kind of friends. It's like people, yeah, they always sounded like that. They sound like that next weekend. And it was a process, I think, as more and more people kept coming to the clubs, then the bands, of course, understood that something special was going on. There was magic in the air. C'era qualcosa di magico nell'aria, però per noi eravamo tutti come una famiglia, tutti amici, e quindi ci sembrava che la musica fosse molto, molto valida, ma era una cosa quasi naturale, cioè fra di noi non si arrivava a pensare che potesse essere tanto grande. Forse per loro diventare famosi all'epoca poteva essere suonare per mille persone. Maybe, you know, back then people like Soundgarden or Nirvana were thinking that they can be a big band to play for 1,000 people, maybe. Or I think that at that in the that 80s... That was the goal. No, in the 80s, I think if you could get 100 people in a club... Yeah, no, I mean, yeah, the maximum possible success they were thinking to... to have in the future was that size. I think even having a record contract at all was probably as far away as traveling to Timbuktu, you know, it was... Si è detto che già l'idea di avere un contratto discografico poteva sembrare come fare un viaggio a Timbuktu. Yeah. E adesso ascolteremo un brano di Vic Chesnutt, che è uno dei nostri musicisti preferiti, che è scomparso poco più di 2 anni fa. E Terry realizzò il suo terzo album, Tornado Alley, dopo aver ascoltato questo disco di Vic Chesnutt, Little. Adesso, tell us the story about... Well, there's a couple stories that go together here. My friend Chris Ekman, again, as the Walkabouts, was suggesting, he said, you got to hear this guy. You know, you got to hear this guy, Vic Chesnutt. And it took me a while, and I finally bought the record Little, and it's just a fantastic record. One man and his guitar, produced by Michael Stipe from R.E.M. Yeah, sì, è stato Chris Ekman a dirgli tu devi assolutamente scoprire questo personaggio che si chiama Vic Chesnutt. Allora lui comprò il disco Little, che era stato prodotto da Michael Stipe dei R.E.M., fra l'altro l'unico disco che Michael Stipe ha prodotto in vita sua, the only record Michael Stipe produced in his life. That could be true. Yeah. I know that. Okay, right. So, yes, and this record changed my life. In this time, in the late 80s, there was not a whole lot of singer-songwriters that were actually working on a rock stage, and Vic Chesnutt was one of those people. And this is a fantastically powerful record, and... you know, as a songwriter, he really is at the top. Yeah. Si è detto che alla fine degli anni '80 non c'erano molti cantautori che si esibissero in grandi, cioè da soli sul palco, e Vic era appunto uno di questi pochi. Il disco è fantastico, e la sua qualità di scrittura è al top. D'altra parte, appunto, Michael Stipe lo produce perché lo riteneva, direi giustamente, il più grande compositore della sua generazione. I also got Vic his first Seattle show. Terry è anche andato al primo show a Seattle di Vic. That's also true. And also, this record was recorded by John Keane. Questo disco fu registrato da John Keane, in che lavorava Athens, anche Georgia. Athens, Georgia. And years later, when I was my third record, I was looking for a producer, and I sent John Keane a cassette of... Demos. Demo songs. And he said, come on down to Athens, Georgia. And I did. And I made a record in Athens with John Keane as producer. And this is a direct result of listening to Vic Chesnutt's music. Sì, lui appunto, dopo aver ascoltato tantissimo questo album, Little, apprezzava appunto come fosse stato prodotto da John Keane. Sentirete, Vic era da solo con la sua voce e chitarra. Terry voleva fare un disco dello stesso genere, mandò una cassetta di demo a John Keane, che gli disse, bene, vieni qua a Athens e facciamo il disco insieme. E questo, il risultato appunto, il disco Tornado Alley, che per molti è il disco più bello di Terry, un disco straordinario. I just wanted to say, I know we're running out of time, but I just wanted to recommend all of Vic Chesnutt's records from the beginning to end. He made, I don't know, 12 or 12, something like this, and all of his records are fantastic, and if you haven't heard Vic Chesnutt's music, I highly recommend making the effort to track his records down. Yeah, I agree 100%. Si è detto, se non conoscete Vic Chesnutt, la raccomandazione che vi faccio è di scoprire tutti i suoi dischi, dal primo all'ultimo, sono tutti bellissimi, è una cosa che io ho sempre trasmessi, è sicuramente un personaggio straordinario. Terry lo ha conosciuto personalmente, io l'ho conosciuto personalmente, poi magari racconto una breve cosa. Intanto ascoltiamoci questo brano intitolato Bakersfield. Get out the tarnix, and I polish them myself. Yes, posters are falling, but who needs them at my age? Well, I've learned to smile when all I feel is rage. So I think I will go to Bakersfield with Gabriel and Paul, and I will hide behind the garbage can while the holy platitudes fall and blow the gates. I am a coming through with my albatrosses and all, and it's strategy, not protocol. Yes, it's strategy, not protocol, that brings me here. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era Bakersfield, questo è uno dei primi dischi di Vic Chesnut. Poi in altri suoi album ci sono arrangiamenti molto più complessi, anche perché con lui ha suonato la crema del rock indipendente americano. Tutti, quando lui chiamava, andavano, perché appunto la sua qualità di scrittura era straordinaria. Molto velocemente un piccolo aneddoto su Vic Chesnut personale: io lo vidi nel 1999, credo, a Monaco. Terry faceva da supporter per il suo tour, Vic faceva pochissimi tour perché aveva dei grossi problemi fisici, era paralizzato su una sedia a rotelle, si muoveva molto male, insomma una cosa complicata, e io ebbi l'occasione di cenare con lui e Terry e chiacchierammo un po', mi chiese delle cose dell'Italia eccetera. Poi lo rividi 11 o 12 anni dopo qua in Italia e andai a salutarlo vedendolo passare appunto sulla sua carrozzella, e mi presentai dicendogli: tu non puoi ricordarti di me, ma ci siamo conosciuti molti anni fa. Lui mi guardò e disse: ma tu sei Stefano, l'amico di Terry Lee Hale. E vi assicuro, per me fu come essere colpito da un fulmine, cioè una di quelle cose che ti lasciano veramente senza parole. Non riuscivo a capacitarmi che potesse ricordarsi di un tizio che aveva conosciuto in un concerto 11-12 anni prima, una cosa assolutamente straordinaria. Questa trasmissione è volata, io avevamo in mente tante altre cose da ascoltare, ma chiaramente i tempi sono quelli che sono, dobbiamo chiudere. Terry ci regalerà un'ultima canzone per chiudere, e magari la prossima volta che tornerà potremo anche parlare più a lungo e presentare il suo nuovo album The Long Draw, che io ho potuto sentire in anteprima. È un disco bellissimo e uscirà per la Glitter House a ottobre. Next time you will talk a lot about your record, of course. Okay. Long Draw. With pleasure. And thank you for being with us. As always, Stefano. It's great. And may I say happy birthday? Yes, thank you. Sì, mi ha augurato buon compleanno, perché domani. One, anzi, no, adesso. Adesso. volevo inserirmi anch'io, se mi consenti, sì, Stefano. Blu Radio Veneto, tutto lo staff di Blu Radio Veneto ti fa gli auguri più cordiali, più carissimi, e grazie della tua simpatia. Grazie a Fantastic. Tutti, veramente. Happy birthday, Stefano. È un compleanno importante anche questo. Hai voluto essere qui in radio proprio quando scatta, è significativo per me. Ecco. Di cuore e con affetto. Grazie. E allora Terry suonerà questa canzone, che non è Happy Birthday, è molto meglio, si intitola Lucky World, il mondo fortunato. È un mondo fortunato quello in cui abbiamo musicisti come Terry che ci regalano la loro musica e la loro grandissima profondità, arte e umanità. Thank you again for being here, Terry. Stefano, till next time you're always welcome. It's always a pleasure. Thank you very much. Lucky World, Terry Lee Hale dal vivo. Buonanotte a tutti da Stefano Deinese e Agostino. gonna change tomorrow, find a new way to walk. And if I'm gonna work hard, I'm gonna learn a new way to talk. Lately I'm so restless, it's nothing you can't see. And if I wanna do this thing, gonna end up with a brand new me. Oh, oh, you lucky world. Oh, you lucky world. Darling, I'm so thirsty, never been so dry. Nothing in a bottle here gonna answer the question why. So I'm gonna change tomorrow, be different when I rise. I'm gonna get better, honey, you're gonna be surprised. Oh, oh, you lucky world. Oh, oh, you lucky world. I'm gonna get happy, I'm gonna start clean, gonna lose these blues and quit being mean. I'm gonna smile, gonna start new, be different than today. Oh, lucky you. Oh, oh, you lucky world. Oh, oh, you lucky world. Oh, oh, you lucky world. Oh, oh, you lucky world. Ciao.